Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. In capo a un'ora Milady udì una voce soave che la chiamava, quella di Madame Bonacieux. Naturalmente la buona badessa aveva consentito a tutto e per cominciare le due donne avrebbero cenato insieme. Arrivando nel cortile udirono il rumore di una carrozza che si fermava alla porta. «Sentite?» disse Milady. «Sì, il rotolare di una carrozza. Quella che ci manda mio fratello. Mio Dio, Sofia, coraggio!» Si sentì suonare alla porta del convento. Milady non si era ingannata. «Salite in camera vostra», disse a Madame Bonacieux. «Avrete qualche gioiello che desiderate portare con voi?» «Ho le sue lettere», ella rispose. «Allora andate a prenderle e venite a raggiungermi in camera mia. Ceneremo alla svelta. Forse viaggeremo parte della notte, dobbiamo essere in forze». «Gran Dio!» disse Madame Bonacieux, portandosi la mano al petto. «Il cuore mi soffoca. Non posso camminare. Coraggio, su, coraggio! Pensate che fra un quarto d'ora sarete salva e pensate che ciò che state per fare lo fate per lui». Milady salì rapidamente in camera sua. Vi trovò il domestico di Rochefort e gli spiegò cosa doveva fare. Doveva aspettare alla porta. Se per caso fossero comparsi i moschettieri, la carrozza sarebbe partita al galoppo. Avrebbe fatto il giro del convento per andare ad aspettare Milady in un piccolo paese situato dall'altra parte del bosco. In tal caso ella avrebbe attraversato il giardino e raggiunto a piedi il villaggio. Milady conosceva a menadito quella regione della Francia. Se i moschettieri non fossero comparsi, le cose si sarebbero svolte come avevano deciso. Madame Bonacieux sarebbe salita nella carrozza con il pretesto di salutarla e Milady avrebbe portato via Madame Bonacieux. «Come vedete», disse Milady quando il domestico fu uscito, «tutto è pronto. La badessa non sospetta nulla e crede che sia per ordine del cardinale che mi si viene a prendere. Costui va a dare gli ultimi ordini. Mettete in bocca qualcosa, bevete un sorso di vino e partiamo». «Sì», disse meccanicamente Madame Bonacieux. «Sì, partiamo». Milady la invitò con un cenno a sedere di fronte a lei. Le versò un bicchiere di vino di Spagna e le servì un petto di pollo. «Vedete», le disse, «come tutto ci è favorevole. Fa notte. All'alba saremo giunte al nostro rifugio e nessuno potrà sospettare dove siamo. Su via, coraggio, mangiate qualcosa». Madame Bonacieux trangugiò meccanicamente qualche boccone e bagnò le labbra nel bicchiere. «Su, avanti, forza», disse Milady, accostando il suo alle labbra. «Fate come me». Ma nel momento in cui l'avvicinava alla bocca, la mano rimase sospesa. Ella aveva udito sulla strada come il rimbombo lontano di un galoppo che si avvicinava. Poi, quasi contemporaneamente, le parve udire un nitrito di cavalli. Questo fragore la strappò dalla sua contentezza, come il fragore di un temporale sveglia nel bel mezzo di un sogno. Ella impallidì e corse alla finestra, mentre Madame Bonacieux, alzandosi tutta tremante, si appoggiava alla sedia per non cadere. Ancora non si vedeva niente. Si sentiva soltanto il galoppo che si avvicinava sempre più. «Oh mio Dio!» disse Madame Bonacieux. «Che cos'è questo rumore?» «Quello dei nostri amici o dei nostri nemici?» rispose Milady con la sua calma mostruosa. «Restate dove siete, ve lo dirò». Il rumore cresceva sempre di più. I cavalli dovevano essere a non più di 150 passi. Non si scorgevano ancora perché la strada disegnava una svolta, ma lo scalpitio diventava così distinto che si sarebbero potuti contare i cavalli dal rumore cadenzato degli zoccoli ferrati. Milady concentrava nello sguardo tutta la sua attenzione. C'era ancora luce sufficiente per riconoscere chi veniva. D'un tratto, alla svolta, vide risplendere i cappelli gallonati e ondeggiare le piume. Contò 2, poi 5, poi 8. otto cavalieri. Uno di essi distaccava tutti gli altri di due lunghezze. A Milady sfuggì un urlo subito soffocato. In quello di testa aveva riconosciuto D'Artagnan. «Oh mio Dio!» esclamò Madame Bonacieux. «Che c'è? È l'uniforme delle guardie del cardinale. Non c'è un istante da perdere!» esclamò Milady. «Fuggiamo, fuggiamo! Sì, sì, fuggiamo!» ripeté Madame Bonacieux, senza però poter muovere un passo, come inchiodata dal terrore. Si sentirono i cavalieri passare sotto la finestra. «Venite dunque, su via, venite!» gridava Milady, cercando di trascinare la giovane per il braccio. «Dal giardino possiamo ancora fuggire, ho la chiave, ma sbrighiamoci, fra 5 minuti sarebbe troppo tardi!» Madame Bonacieux tentò di camminare, fece 2 passi e ricadde sulle ginocchia. Milady tentò di sollevarla e di trascinarla via, ma senza riuscirci. In quel momento si sentì il fragore della carrozza che, alla vista dei moschettieri, partiva di gran carriera. Poi rintronarono 3 o 4 spari. D'un tratto un livido bagliore lampeggiò negli occhi di Milady. Con un balzo, stravolta, corse alla tavola. Versò nel bicchiere di Madame Bonacieux il contenuto del castone di un anello che ella aprì con straordinaria prontezza. Era un granello rossiccio che si sciolse subito. Poi, prendendo il bicchiere con mano ferma, «Bevete», disse, «questo vino vi darà forza, bevete». E accostò il bicchiere alle labbra della giovane, che beve meccanicamente. «Non così volevo vendicarmi», disse Milady, deponendo con un sorriso infernale il bicchiere sulla tavola. «Ma si fa quello che si può». E si lanciò fuori della stanza. Madame Bonacieux la guardò fuggire, incapace di seguirla. Era come coloro che sognano di essere inseguiti e invano tentano di camminare. Passarono alcuni minuti. Alla porta rintronava un pauroso strepito. Ad ogni istante Madame Bonacieux si aspettava di vedere ricomparire Milady, che non ricompariva. Parecchie volte, certo, per il terrore, un sudore freddo le salì alla fronte che scottava. Finalmente ella udì il cigolio del cancello che si apriva. Un rumore di stivali e di speroni rimbombò per le scale. Un gran brusio di voci veniva avvicinandosi, in mezzo alle quali le sembrò di sentire pronunciare il proprio nome. D'un tratto ella gettò un acuto grido di gioia e si precipitò alla porta. Aveva riconosciuto la voce di D'Artagnan. «D'Artagnan!» esclamò. «Siete voi? Di qui, di qui!» «Costanze! Costanze!» rispose il giovane. «Dove siete, mio Dio?» In quello stesso momento la porta della cella, più che aprirsi, cedette alla spinta. Parecchi uomini si precipitarono dentro. Madame Bonacieux si era accasciata in una poltrona senza poter fare un movimento. D'Artagnan buttò via una pistola ancora fumante che aveva in mano e cadde in ginocchio davanti alla sua amante. Athos infilò la sua pistola nella cintura. Porthos e Aramis, che stringevano le spade sguainate, le rimisero nel fodero. «Oh, D'Artagnan! Mio diletto D'Artagnan, finalmente sei qui. Non mi avevi ingannata. Sei proprio tu. Sì, sì, Constance, di nuovo insieme. Lei aveva un bel dire che tu non saresti venuto. Dentro di me lo speravo. Non ho voluto fuggire. Oh, come ho fatto bene. Come sono felice». A quella parola lei, Athos, che si era seduto tranquillamente, si alzò di colpo. «Lei? Chi lei?» chiese D'Artagnan. «Ma la mia compagna, quella che per amicizia per me voleva sottrarmi ai miei persecutori, quella che, scambiandovi per guardie del cardinale, è fuggita or ora. «La vostra compagna?» esclamò D'Artagnan, facendosi più smorto del velo bianco della sua amante. «Di quale compagna intendete parlare? Di quella la cui carrozza era alla porta, di una donna che si dice vostra amica, D'Artagnan, di una donna a cui avete raccontato tutto. Il suo nome!» urlò D'Artagnan. «Mio Dio, non sapete dunque il suo nome? Ma sì, l'hanno detto davanti a me, aspettatemi. È strano, mio Dio. La testa mi si confonde, non ci vedo più. A me, amici, a me. Le sue mani sono gelide, gridò D'Artagnan. Sta male, gran Dio. Sviene. Mentre Porthos chiamava aiuto con la sua voce stentorea, Aramis corse alla tavola per prendere un bicchiere d'acqua, ma si fermò alla vista della faccia di Athos, paurosamente stravolta. Ritto vicino alla tavola, i capelli irti, gli occhi dilatati dallo sbigottimento, egli fissava uno dei bicchieri e sembrava in preda al dubbio più spaventoso. Oh, mormorava, oh no, è impossibile. Dio non permetterebbe un simile delitto. Un po' d'acqua, gridava D'Artagnan, un po' d'acqua, oh povera donna. Mormorava Athos con voce spezzata. Sotto i baci di D'Artagnan, Madame Bonacieux riaprì gli occhi. Torna in sé, esclamò il giovane. Oh mio Dio, ti ringrazio. Signora, disse Athos, in nome del cielo, di chi è questo bicchiere vuoto? Mio, signore, rispose la giovane donna con voce morente. Ma chi vi ha versato il vino che era in questo bicchiere? Lei. Ma chi lei? Ora ricordo, disse Madame Bonacieux, la contessa de Winter. I quattro amici lanciarono un solo e unico grido, ma quello di Athos soverchiò tutti gli altri. In quel momento la faccia di Madame Bonacieux divenne livida, un dolore sordo la sopraffece, ed ella si abbandonò ansimante tra le braccia di Porthos e di Aramis. D'Artagnan strinse le mani di Athos con un'angoscia indescrivibile. Cosa? Disse, tu credi? Credo tutto, rispose Athos, mordendosi le labbra a sangue. D'Artagnan, D'Artagnan, esclamò Madame Bonacieux, dove sei? Non abbandonarmi. Lo vedi che sto per morire? D'Artagnan lasciò le mani di Athos, che ancora stringeva tra le sue mani contratte, e corse da lei. Quel volto così bello era completamente sconvolto. Gli occhi vitrei ormai non avevano più sguardo. Un tremito convulso le scuoteva il corpo. Il sudore le rigava la fronte. In nome del cielo! Correte, chiamate, Porto, Aramis! Chiamate aiuto! Gridò D'Artagnan. Inutile, disse Athos. Inutile. Per il suo veleno non c'è contravveleno. Aiuto, aiuto, mormorò Madame Bonacieux, aiuto. Poi, radunando tutte le forze, prese fra le sue mani il capo del giovane. Lo guardò un attimo, come se tutta l'anima le fosse passata nello sguardo, e con un grido singhiozzante appoggiò le labbra su quelle di D'Artagnan. «Constance! Constance!» esclamò D'Artagnan. Un sospiro sfuggì dalla bocca di Madame Bonacieux, mentre sfiorava quella di D'Artagnan. Quel sospiro era la sua anima, così pura e innamorata, che volava in cielo. Tra le braccia, D'Artagnan non stringeva che un cadavere. In quel momento comparve sulla soglia un uomo, pallido quasi come quelli che si trovavano nella stanza, si guardò intorno, vide Madame Bonacieux morta e D'Artagnan svenuto. Giungeva proprio in quell'istante di attonito sbigottimento che segue le grandi catastrofi. «Non mi ero ingannato», disse. «Quello è Monsieur D'Artagnan e voi siete i suoi tre amici. Messie Athos, Porthos e Aramis. I tre nominati guardavano lo straniero con stupore, poiché a tutti e tre sembrava di riconoscerlo. «Signori», soggiunse il nuovo arrivato, «siete con me all'inseguimento di una donna che», continuò con un sorriso terribile, «è passata certamente di qui, perché qui vedo un cadavere». I tre amici stettero muti. La voce e il viso ricordavano loro qualcuno che avevano già visto, ma non riuscivano a ricordare in quell'occasione. «Signori», proseguì lo straniero, «già che non volete riconoscere un uomo il quale probabilmente vi deve la vita due volte, devo pur dire il mio nome. Sono Lord de Winter, il cognato di quella donna». I tre amici gettarono un grido di sorpresa. Athos si alzò e gli tese la mano. «Siete il benvenuto, milord», disse. «Siete dei nostri. Sono partito 5 ore dopo di lei da Portsmouth», proseguì De Winter. «Sono arrivato 3 ore dopo di lei a Boulogne. Per 20 minuti l'ho mancata a Saint-Omer. Poi a Lillier ne ho smarrito la traccia. Vagavo a caso, chiedendo informazioni a tutti. Quando vi ho veduti passare a galoppo, ho riconosciuto Monsieur d'Artagnan. Vi ho chiamati, non mi avete risposto. Ho voluto seguirvi, ma il mio cavallo era troppo stanco per correre a sprombattuto come i vostri. E nonostante la vostra furia, a quanto pare, siete arrivati troppo tardi. Lo vedete?» disse Athos, additando Madame Bonacieux morta, e D'Artagnan, che Porthos e Aramis tentavano di rianimare. In quel momento D'Artagnan riaprì gli occhi. Si strappò dalle braccia di Porthos e di Aramis e si buttò come un forsennato sul corpo della sua amante. Athos si alzò, mosse verso l'amico con passo lento e solenne. Lo abbracciò teneramente e, poiché quegli scoppiava in singhiozzi, gli disse con la sua voce così nobile e persuasiva: «Amico, sii uomo. Le donne piangono i morti, gli uomini li vendicano». «Oh sì», disse D'Artagnan, «sì, se è per vendicarla, sono pronto a seguirti». Tutti e cinque, seguiti dai servitori che tenevano i cavalli per le briglie, si diressero verso la città di Béthune, di cui si scorgevano i sobborghi, e si fermarono alla prima locanda che incontrarono. «Ma», osservò D'Artagnan, «non inseguiamo quella donna». «Più tardi», disse Athos, «devo prima prendere qualche provvedimento». «Ci sfuggirà», insistette il giovane. «Ci sfuggirà, Athos, e sarà colpa tua. Me ne prendo le responsabilità», confermò Athos. D'Artagnan aveva una tale fiducia nella parola dell'amico che chinò la testa e entrò nella locanda senza rispondere sillaba. Porthos e Aramis si guardarono senza capire un bel niente della certezza di Athos. Lord de Winter credeva che parlasse a quel modo per sopire il dolore di D'Artagnan. «Adesso, signori», disse Athos quando ebbero accertato che nella locanda c'erano 5 camere libere, «ognuno si ritiri nella propria stanza. D'Artagnan ha bisogno di essere solo per piangere e voi per dormire. Io mi incarico di tutto. State tranquilli». «Faccio osservare», interloquì De Winter, «che se c'è qualche misura da prendere contro la contessa, questo riguarda me. È mia cognata». «E anche me», disse Athos. «È mia moglie». D'Artagnan trasalì, perché comprese che Athos era sicuro della vendetta, dal momento che rivelava un simile segreto. Porthos e Aramis si guardarono impallidendo. «Orsù, ritiratevi e lasciatemi fare», continuò Athos. «Comprenderete che nella mia qualità di marito la cosa mi riguarda. Però, D'Artagnan, se non l'avete perduto, consegnatemi quel foglietto sfuggito dal cappello di quell'uomo,